cercando una ragione per seguire una strada che non c'è. Stavo cercando un'illusione per riuscire a vivere con te. Ed era un viaggio disperato. Stavo cercando una ragione che forse davvero non c'è. Ho troppa polvere negli occhi per vedere una strada che non c'è. Ho troppo fango nelle scarpe per riuscire a correre veloce. Ho troppa nostalgia di quando credevo ancora in qualche cosa che forse davvero non c'è. E invece no. Stavo cercando un'illusione per condurre una vita da leone. Stavo cercando comprensione per provare a sentirmi un po' migliore. Ed era un viaggio disperato. Stavo cercando una ragione che forse davvero non c'è. Ho troppi tarli nella mente per seguire una strada che non c'è. Troppe paure mai svelate per riuscire a vivere con te. Troppe catene nei miei polsi. Troppe certezze disperate che non son vere per te. E invece no. E invece no.